L'autorità dei ricchi contro i poveri c'è sempre stata. Nel 1970 è successo che i ricchi potenti si sentissero minacciati, ebbero la sensazione di star perdendo la guerra e quindi dovettero immaginare una controffensiva, una controrivoluzione e quindi una controguerriglia delle idee. E loro proprio hanno usato questa espressione di fare una controintelligenza. L'hanno fatta mettendo in campo un sacco di soldi, si sono autotassati, hanno messo su praticamente alla fine della storia, queste fondazioni avranno speso una decina di miliardi di dollari su questa operazione nel giro di 30 anni, quindi hanno finanziato facoltà universitarie, riviste, gruppi di studio, think tanks, per semplicemente riacquistare l'egemonia, per fare sì che mentre le idee di uno Stato più socialista che ridistribuisse le ricchezze era diventata maggioritaria negli anni 60. Invece adesso loro volevano riportare l'idea che la falsa idea della meritocrazia, cioè la versione buona della meritocrazia è che chi ha più meriti merita di avere di più. La versione cattiva della meritocrazia è che chi ha di più pensa di avere più meriti, cioè che ce l'ha perché ha più meriti e che quindi quello che non ce l'ha è più fesso, si merita di stare sotto. Un'egemonia che sono riusciti a costruire che ha penetrato però anche nel senso comune di persone che non appartengono alla loro classe. E certo che se no che egemonia è? L'egemonia è proprio questo, l'egemonia borghese significa che la gente pensa in concetti borghesi, l'egemonia neoliberale fa sì che ognuno di noi pensi se stesso come capitalista di se stesso, come imprenditore di se stesso e che quindi ognuno di noi pensa la propria vita come un'impresa in cui mette in gioco il proprio capitale umano, culturale, simbolico, economico e può vincerlo e può perderlo oppure può fallire, per cui un immigrato che annega nel Mediterraneo è un imprenditore di se stesso che ha fatto un investimento per aumentare il proprio capitale in un altro paese, gli è andata male. Una domanda su, come dire, invece la politica che anche diciamo in area progressista si è lasciata persuadere da queste sirene. Io no, devo essere onesto, non vedo un partito progressista, cioè progressista significa un partito in generale, per me la sinistra è il partito di chi sta dalla parte dei dominati contro i dominanti, contro il dominio. Io non vedo nessun partito che rappresenti gli interessi dei dominati per cercare di limitare il dominio, cioè non vedo nessun tribuno della plebe in questo periodo, non vedo nessuno che difende i diritti dei disoccupati, che difende i diritti dei riders, delle persone pagate 700 euro al mese, insomma qui vedo ragazzi che accettano 700-800 euro al mese e ringraziano pure, cioè guadagnando 23 euro al giorno per tutto compreso, vitto, alloggio, vestiti, divertimenti, ma è una cosa folle. Ecco, un'ultima domanda invece su come reagire. Lei diceva il capitale ha imparato da Gramsci, da Lenin, eccetera, come invece si può reagire? Beh, intanto impariamo dal capitale noi e quindi facciamo quello che hanno fatto loro e poi si può reagire innanzitutto riproponendo alle persone un futuro della società, cioè la società che ci viene offerta oggi non ha futuro, nessuno dei potenti oggi in sella risponde alla domanda di un giovane di 25 anni che come starò da vecchio, cioè tutti vivono in un eterno presente, gli hanno cancellato la dimensione del domani e quindi noi dobbiamo semplicemente ridare un domani alle persone. È importante farlo attraverso la narrazione. Ah beh sì, non attraverso le prediche, perché di prediche non se ne può più.